Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questo è fuori, finisce qui, Venus Williams, 14 anni dopo, è in finale a Melbourne, vince in 3 set, vince in rimonta per la prima volta dal novembre del 2015, 6-7, 6-2, 6-3 a Coco Van de Veghe. È finita, Roger Federer è in finale, è incredibile, è in finale agli Australian Open, continua la favola di Federer. Io mi viene da piangere. Un grandissimo Federer infinito. 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. Ha quasi 36 anni Roger Federer, raggiunge un'altra volta la finale in uno slam. Che la dire? Sesta qui, la 28esima in uno slam. Che fenomeno. Come se fosse l'ultimo concerto dei Queen, di un re di vivo Freddie Mercury, come se fosse l'ultimo concerto dei Rolling Stones, come se fosse... Non mi è venuto in mente un gruppo femminile più pop noto, una reunion delle Spice Girls, anche se hanno tutto il diritto di offendersi, Venus e Serena. È quello che sta succedendo in Australia, nel tennis, dove si sta scrivendo un pezzo della storia dello sport, e permettetemi anche di essere retorico. Allora, Nadal e Dimitrov sono al quinto set, questo punteggio 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, due pari nel quinto e decisivo set senza break. Abbiamo bisogno di un cantore di questo sport com'è Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi, sì, è un'edizione indimenticabile perché ci sono le storie che sono bellissime, come quella delle Williams, come la Lucic, anche lei che ha quasi 34 anni arriva a rigiocare da protagonista 18 anni dopo essere stata una bambina prodigio, e adesso ci sono gli uomini, Nadal, Federer, questo Dimitrov che era un talento bocciato poco, non compiutamente, che sta giocando la partita della vita contro Rafa. Ci sono delle storie... soprattutto per aver mollato la Sharapova. Sì, e prima ancora Serena Williams, addirittura ha scatenato l'unico bisticcio fra le due, proprio per le sue qualità anche a letto, diciamolo. No, è un'edizione indimenticabile. C'è da dire che tecnicamente questa partita soltanto, solo questa semifinale, sono due pari, 30 pari al quinto, vale da sola tutto il torneo femminile, con tutto il rispetto per il tennis femminile, perché obiettivamente le due Williams, quando vogliono, quando sono allenate, sono ancora le più forti, perché le seconde sono un po' scarse. Mentre quest'anno, a prescindere dai capitomboli di Murray e di Djokovic, i primi due del mondo, anche gli altri sono stati ad altissimo livello, perché non dimentichiamo la storia del fratello maggiore di Zverev, Misha, che gioca un servizio volley incredibile. Cioè, stiamo vedendo delle grandissime partite. Senti, vuol dire qualcosa in valore assoluto questo risultato? È chiaro che siamo qui tutti a fare il tifo per... con tutto rispetto per il tomor de femme, non l'ho pronunciato male ma non so francese, Dimitrov, con tutto rispetto, siamo qui tutti sbagliati due su due, ma succede nell'euforia. Tomber de femme, tomber de femme, e Dimitrov, che però al di là di questo, con tutto il rispetto per tutto questo, siamo qui tutti a fare un tifo scatenato per vedere domenica Nadal contro Federer, The Reunion. Sì, è vero, e da un'altra parte i tifosi di Federer fanno tifo per Dimitrov, perché obiettivamente tutti temono fortemente la testa, i precedenti che Nadal ha vinto, sì, di tennis, sì, di fisico, ma soprattutto appunto di capacità mentale di tenere, che Federer purtroppo non ha allo stesso livello. Quindi per tutti i tifosi di Federer sarebbe meglio che ce la facesse Dimitrov. Tra l'altro 5-0 nei confronti diretti, se non mi sbaglio. Sì, per la storia, per la bellezza dello sport, sicuramente l'ideale sarebbe una finale Federer-Nadal, che ricaccerebbe un po' indietro questa bellissima storia anche della prossima generazione, no? Ragazzi promettenti. Dove non spicca al momento un'altra stella, ma ce ne sono 5-6 veramente molto forti. Ecco, questo è il torneo comunque dove sono tornati vecchi, non c'è niente da fare, 35-36 anni, il tennis è loro, e lasciatemi dire che queste cose succedono spesso proprio all'Australian Open, perché i giocatori sono carichi di emozioni, di forza, si sono allenati da poco, quindi sono pronti, sono tutti vogliosissimi. Federer stava 6 mesi fermo, Nadal praticamente ha perso tutto l'anno passato, sono tutti molto vogliosi. Venus sono 3 anni che non gioca praticamente ad alto livello, Serena ha perso 2 finali l'anno scorso, il numero 1 del mondo, quindi hanno tutti una grande volontà, e tutto questo si vede in questo torneo. 3-2 Dimitrov intanto nel quinto e decisivo set, ma non c'è ancora stato un break in questo quinto decisivo. Tante palle break, ma non riescono. È bella questa partita perché c'è il talento offensivo di Dimitrov, che finalmente ha trovato anche una base fisica, e un'altra cosa che aveva un problema grosso, che aveva anche Federer all'inizio di carriera, aveva troppe opzioni, non sapeva mai cosa scegliere. Alla fine ha trovato invece la sua via e sta giocando un tennis essenziale, bello, offensivo, con tanto servizio, con tante discese a rete. Dall'altra parte ci abbiamo il grande difensore, che ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi, purtroppo per lui non ha ritrovato, e secondo me non ritroverà più, il suo favoloso dritto, quello che spaccava in due gli avversari, però ecco, è un Nadal almeno all'80%. Senti Vincenzo, ti chiedo ancora questo, tu hai scritto il tennis mondiale, hai interpretato il tennis mondiale per molti anni, nonostante sia ancora molto giovane. Vuol dire qualcosa in valore assoluto questo risultato? Sì, vuole dire tantissimo, vuole dire che intanto il talento è questo, che aprono le orecchie tutti quelli che capiscono che cos'è lo sport, non ha età. Un grande campione, io lo scrivo dall'anno scorso, 2 anni fa, Federer ha ancora uno slam in canna. Quando lo scrivo c'è sempre 10-20 follower che mi rispondono: ma sei pazzito, sei un sognatore. No, perché come vedi è in finale, ha quasi 36 anni, 35 anni e mezzo. Lo stesso vale per Nadal, lo stesso vale per tutti i grandi campioni di tutti gli sport. Guarda la Costner l'altro giorno, torna alle gare e fa un terzo posto che è del miracoloso. Sì. Valentino Rossi, quanti campioni così. Questo è il primo valore assoluto che dobbiamo dare. Il secondo, questo sport di cui tutti vedono qualcosa di esteriore, ha un sottofondo di lavoro, di fisico, che è straordinario. Questi sono degli esempi in tutto, perché per rimettersi a lavorare quando hai in banca 100 e più milioni di dollari vuol dire che tu hai delle motivazioni straordinarie. Ma il grande campione non guarda l'estratto conto. Bravissimo, mai, non sa nemmeno quanto ha. Veramente. Il grande campione non guarda l'estratto conto perché ama profondamente quello che fa. E questo pensa solo Venus Williams. Venus Williams ha la sindrome di Sjögren, cioè praticamente è una malattia autoimmune per la quale alcuni esseri umani non riescono neanche più a camminare normalmente. Lei ha fatto questo torneo fantastico, per il quale lei veramente merita il tifo di tutti, così come Federer, perché loro due alla fine vincano questo titolo, perché riaccendono anche il gusto per il bel gioco, perché anche Venus è un gioco molto offensivo, e per il sogno, perché lo sport ci aiuta a sognare e nella vita spesso non ci riesce più. Grazie Vincenzo, ho l'impressione che ci sentiremo presto in questi giorni. Arrivederci, ciao grazie. Ciao, Vincenzo Martucci. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24 è il numero verde. 3-2 Dimitrov nel quinto e decisivo set. Ovviamente vi teniamo aggiornati, perché riusciremo a darvi la finale, l'altro finalista insieme a Roger Federer di questo meraviglioso Open d'Australia. Tutti convocati. convocati. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Come va Nadal? Siamo 3-2 nel quinto set. 3-2 per Dimitrov senza break, 3 pari, quindi tutto in equilibrio. Al quinto set, roba epocale, leggendaria. Bellissimo, ho visto un pezzettino in redazione, adesso sono a Roma. Quindi... ti aggiorno io, non ti preoccupare. Aggiorna. Ti aggiorno io, stai tranquillo. No, ma è come vedere Totti e Buffon che vincono il mondiale in Russia. Ma bisogna essere passato strato, no, cioè, ragazzi, siamo Federer che no, ho capito, però sai quante volte abbiamo cantato il Sunset Boulevard di Roger Federer, per non dire di Nadal, non gioco una finale dello Slam dal 2012, tutti quanti siamo qui ai piedi della sua statua, però che arrivassero lì, no, ma è come io ti dico Totti e Buffon che alzano la Coppa del Mondo in Russia. Poi fammi esagerare qualche volta. Va bene, fratello mio. Io mi tengo sempre Totti e Buffon che alzano la Coppa in Russia, però è uno spettacolo magnifico. Sai che abbiamo adesso facciamo un po' di gossip, hai voglia? Perché c'è Federico Pastorello collegato con noi. Però, come va? Va bene. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Stai guardando anche tu Nadal o hai da fare? No, guarda, io purtroppo mi sto muovendo da un appuntamento all'altro, sono qui a Londra. Ecco, cosa fai a Londra, Federico Pastorello? Cosa fai a Londra, Federico Pastorello? Turista per caso. Bugiardo. No, vabbè, sì, questi giorni qui non si deve fare altro che lavorare, quindi non è che sono molto fantasioso, quindi no... appuntamenti, si parla, si fa, si dispa, si chiude a volte, esatto, sì, a volte si chiude anche, hai ragione. Molto si chiude anche. Ti ricordi Gullit l'altro giorno quando era qui che ha fatto il gesto di Pinocchio con Filippo Galli? Sì, lo faccio. Anch'io. Insomma, non ce la vuoi... si chiude o su che cosa? No, innanzitutto sul turista per caso, perché qui non freghi nessuno, abbiamo una certa età. Esatto, che cosa stai facendo lì? Non ce lo vuoi dire? Su cosa stai chiudendo? No. Non ce lo vuoi dire? C'è qualcosa che ci puoi dire? Io sono qui a Londra, nel senso, ho da 5-6 anni l'ufficio qui, quindi sì, anche l'ufficio qua, quindi diciamo che spesso volentieri si lavora bene perché... Certo. No, la posta, esatto, sono stato a contare la posta. No, a parte gli scherzi, no, Londra è diventato un po' un punto dove effettivamente si ritrovano tantissimi club, anche stranieri, quindi diciamo è diventato un po' il polo del mercato internazionale, quindi tante volte si viene qui per fare degli appuntamenti, ripeto, extra Inghilterra, insomma, quindi sì, poi domani c'è qualche partita, quindi vado a vedere il Chelsea, quindi diciamo che ho approfittato per venire su a fare un giro, via. Va bene, siamo soddisfatti, Pardo? Siamo molto soddisfatti, no, non siamo soddisfatti per niente. Che chiudi da qui al 31? Vabbè, io spero va giù piatto, Pardo. Io spero di chiudere qualcosa, qualcos'altro, quindi devo dire, sono già molto contento e soddisfatto per il lavoro fatto, soprattutto per Patrice, perché era una cosa che per Evra, perché era una situazione che desideravo davvero tanto, perché era una situazione che era diventata non simpatica, non c'erano problemi di natura di rapporti, come ho visto che hanno scritto, litigi col ministro, con la società, diciamo, no, che assolutamente è che Patrice aveva il desiderio di sentirsi, di continuare a sentirsi giocatore importante, e diciamo che forse questo nella Juve quest'anno è riuscito soltanto per la prima parte della stagione, avendo giocato comunque tutte le partite importanti, però sarebbe stato un po' più difficile nella seconda parte, insomma. Credo quindi... 6 su 6 in centro, se non sbaglio, credo 6 su 6 però... in centro, mi pare, non lo so, magari mi sbaglio. No, ma io volevo invece chiederti, io sono un fan di Evra, non solo dal punto di vista anch'io sono ma dal fan punto di vista umano, perché bravo, lo dicevo qualche giorno fa, c'era Pastorello, è uno di quei giocatori che, anche se ci incontriamo a volte ogni 4 mesi in una partita, insomma, è uno di quelli che viene e ti chiede come stai, capito? Poi chiaramente parla l'italiano migliore del mio, e questo ha sempre aiutato, anche negli anni di Manchester. Volevo chiederti se quel pallone sanguinoso perso a Monaco, insomma, lui ha fatto delle cose meravigliose in carriera, 5 finali, anche alla Juve secondo me ha fatto molto bene. Se nel suo, se nella sua testa quell'errore lì, che forse ha un po' cambiato, no, la storia, non solo della passata stagione, se rimane come un tarlo, se ci ripensa su queste cose. Ma è normale che, indipendentemente da quanto possa essere stato determinante quell'errore, poi magari qui ci sarebbe da discutere, perché insomma alla fine è vero, ma allora se andiamo a vedere tutti i palloni persi nella storia, ci sono anche i compagni, ci sono altri 6 compagni dietro di lui che avrebbero dovuto probabilmente fare qualcosa in più, ma non è che qui adesso stiamo ovviamente a disquisire di questo. No, io credo che lui sia stato chiamato alla Juve, anzi senza credo, perché ero presente quel giorno, gli è stato chiesto fondamentalmente di aiutare la Juve a crescere proprio sulle prestazioni internazionali, e in quel caso specifico ovviamente della Champions League, visto che purtroppo fino a quel momento non erano mai andati oltre, se non sbaglio i sedicesimi addirittura, non credo che avessero mai passato il pool, o sbaglio, adesso non mi ricordo, dopo magari non vorrei, guardate voi, non vorrei dire stupidaggine. Quindi credo che da questo punto di vista, comunque dopo il primo anno che è arrivato, sono arrivati in finale, dopo chiaro, per l'amor di Dio, può essere un caso sicuramente, o magari ci sarebbero arrivati anche senza Patrice, non sto dicendo questo, però l'importanza di Patrice all'interno di uno spogliatoio è una cosa Bravissimo. Che non si può descrivere, quindi non è solo il contributo, ecco. Non è solo il contributo che lui ha dato in questi 2 anni, bravo, ma è questo il punto, parlo della ragione, ed è il motivo per il quale tu arrivi a raggiungere certi obiettivi. Perché non è questione di fare gol o dell'attaccante o della classe, perché sicuramente ci sono giocatori anche in altri ruoli più determinanti di lui, della Juve che è andata in finale o che comunque è arrivata. Però nella realtà la mentalità tu non la compri, il carattere, la personalità, la grinta, la determinazione sono cose che tu non puoi comprare. Le puoi forse un po' allenare, vero, però o le hai o non le hai. E in quella squadra lì, ovviamente, oltre a magari Tisi e a Chiellini o anche ad altri, Bonucci, ma questo è lì che volevo arrivare. Però sicuramente lui ha portato qualche cosa a questa squadra, e non è un caso che, ma infatti, Federico, le cose dopo la mentalità tu l'acquisisci, nel senso che dopo, chiaramente essendo forte, tu arrivi a raggiungere certi obiettivi, e probabilmente una volta che hai raggiunto certi obiettivi ti senti più confident, no? più sicuro di te stesso. Lui in carriera ha vinto 20 o 21 trofei, credo che pochi giocatori al mondo possano annoverare questo tipo di bacheca, proprio perché probabilmente impari vincendo, capisci? No, ma certo, Federico, ma io volevo arrivare dove è arrivato Pardo, toccare quel dente traballante che ha toccato Pardo, perché a me ha sorpreso molto, e morivo dalla voglia di parlare con te, mi ha sorpreso molto questa vicenda, perché Evra, anche quando non giocava nella Juventus, era comunque uno di quelli che andava a metterci la faccia e le parole insieme a Buffon, a Chiellini e a Bonucci. E mi ha sorpreso molto la partenza di Evra, proprio per questo motivo, non come giocatore, ed è per questo che mi sono fatto dei cattivi pensieri, hai capito? No, i cattivi pensieri diciamo che chiaramente lui quello che ha fatto fino adesso l'ha sempre potuto fare, perché tutte le squadre dove è andato giocava 50 partite l'anno, adesso 50 per dire, nel senso che era un titolare inamovibile, ok? Chiaramente la leadership, anche il rispetto che ti viene dato dai tuoi compagni, viene anche in funzione delle prestazioni che fai, perché chiaramente io non ho mai sentito, correggetemi se sbaglio, di un grande leader scarso nelle sue prestazioni, perché generalmente tu ti conquisti anche la fiducia e la stima dei tuoi compagni anche per le prestazioni che tu fai. Probabilmente nella sua testa il fatto di giocare così poco e di dover giocare ancora meno nei prossimi mesi in avanti, gli avrebbero comunque probabilmente anche inconsciamente tolto quella leadership che comunque aveva in spogliatoio, e probabilmente gli speech che faceva prima della partita, perché spesso li faceva per caricare i suoi compagni anche individualmente eccetera, probabilmente lui sentiva che avrebbero reso meno. Quindi in realtà a un certo punto lui mi ha detto: io comunque sono un calciatore, non sono un motivatore, quindi voglio dire, lui ha voglia di giocare, probabilmente, ripeto ancora una volta, una carriera come la sua la fai solo se ti prendi a 4 mesi dalla fine di un campionato che probabilmente tante cose potresti anche vincere, prendi armi e bagagli e sei disponibile ad andare in club. Comunque adesso Marsiglia è un club super prestigioso, ma lui aveva preso in considerazione anche di andare in altri club tipo Crystal Palace, che sinceramente ovviamente non un giocatore della Juve normalmente non prenderebbe mai in considerazione, ma lui ha bisogno di questo, lui è, per lui è proprio, è come per noi l'aria che respiriamo. Quindi, sì, sì, è chiaro, quindi è un fattore esclusivamente agonistico. E apprezzato, esattamente, per questo motivo. A parte che c'è, scelta. Ad esempio, Paolo Dan, un ascoltatore, scrive: le parole di Evra hanno cambiato la storia dello scudetto dell'anno scorso dopo il Sassuolo. Però vorrei che in un secondo, Pastorello, non è un suo assistito, però che mi spiegasse lo strano caso Niang, per quello che ne sai. Sì. Guarda, io ripeto, ho vissuto la vicenda diciamo da vicino, nel senso che io ho seguito per conto del Milan la trattativa con l'accordo con i Watford, quindi il discorso del ragazzo ovviamente ne so relativamente da questo punto di vista. E, io credo che Niang abbia pagato un po' diciamo questo buon inizio, e dopo poco alla volta il fatto che le sue prestazioni e quindi anche probabilmente la fiducia nell'allenatore fossero un pochettino svanite, e devo dire che purtroppo anche i gol, i rigori sbagliati, cioè purtroppo probabilmente si era arrivato a un momento dove lui probabilmente nel Milan aveva perso un po' di fiducia, anche probabilmente sentendo meno fiducia nell'ambiente, che poi ripeto ancora è una cosa normalissima, perché un allenatore ha comunque a disposizione 20 rotti giocatori e alla fine deve fare per forza delle scelte e le fa in funzione di un risultato che deve essere per il club il migliore possibile. Quindi in quel momento lì probabilmente Montella ha visto che Niang stava perdendo un po' di brillantezza nelle prestazioni e quindi ha dovuto fare delle scelte diverse. Io credo che questo cambio a lui farà molto bene, perché ha delle qualità incredibili, probabilmente non sa nemmeno lui quanto forte è, deve soltanto, ripeto, fare uno step, probabilmente maturare ancora un pochino, non essendo, cioè, essendo comunque ancora molto molto giovane, può migliorare molto, sì, certo. E al tempo stesso far vedere quelle che sono le sue qualità. Quindi io credo che Watford, con mister Mazzarri, ma soprattutto con una proprietà italiana e un presidente così in gamba come Gino Pozzo, io credo che questa cosa possa essere realizzabile. Sì, assolutamente. Grazie. C'è un diritto di riscatto ambizioso, perché sono 18 milioni, ma io credo che questo giocatore potrà far vedere assolutamente che vale questa cifra e magari anche oltre. Grazie Federico, grazie davvero. Grazie, sono a voi, molto interessante. Grazie, sempre è un grande piacere. Ciao Federico Pastorello, anche se non ci hai detto cosa sei a fare a Londra. Dobbiamo fermarci per la borsa. Intanto 4 pari la situazione tra Nadal e Dimitrov. Siamo al quinto set per designare il finalista. Siamo a Roger Federer dagli Open di Australia. A dopo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Sì, noi abbiamo solamente una possibilità, è quella di pensare unicamente a noi stessi e cercare di migliorare ancora di più il nostro gioco, migliorare le nostre prestazioni e vincere da qui alla fine del campionato più partite possibile. E poi dopo poi si tireranno le somme. In questo momento tutte le classifiche hanno un valore che insomma, non troppo importante, perché è solamente una classifica parziale e quindi la classifica che conterà sarà solamente quella del 28 maggio e noi lì vorremmo essere più avanti. Allora, mentre Rafa Nadal sta servendo per la finale degli Australian Open 5-4, ha strappato il servizio a Dimitrov e quindi stiamo su questa partita che potrebbe sancire il grande ritorno finale, Federer-Nadal domenica mattina, tutti su questi schermi. Propongo uno specialone con Pardo anche. Volentieri. Volentieri. Allora, Tommaso Labate è calabrese. Ma fatto vive... uscire di casa Labate? Non lo so. E anche Labate sono ancora bloccato a vedere Nadal vintro. Sei ipnotizzato. Italia-Germania 4-3 di Messico 70, confronto sembra al Bilonef Carpi. Bravo Tommy. No, ma io ho detto prima a Pardo, mi ha rimbalzato un po' schernendo. Mi sarebbe... fatto che vedere la finale 30 pari, ragazzi. Abbiamo Tommaso Labate, telecronista, attenzione, di questo finale di partita. Mamma mia, ragazzi. Tommy, io stavo dicendo prima che vedere la finale nel 2017 Federer-Nadal sarebbe come vedere Totti e Buffon alzare la Coppa del Mondo di Russia. E Pardo, come Prodi e Berlusconi scontrarsi alle prossime elezioni, bravo, cosa che probabilmente bravo, succede. Bravo. mi sembra la più probabile delle Vedi Silvio, ti voglio. Allora, siamo ancora qui. Come sta andando? Come sta andando, Tommy? Servizio Nadal, no prima, 30 pari, 5-4 al quinto set, 4 ore e 54 di gioco, ragazzi. Lo sappiamo, siamo assatanati su questo. Ti ho fatto sentire la nona di Beethoven, tu sei calabrese, vivi a Roma, sei un giornalista illustre, non so quanto tu sia scaramantico, domani c'è il Pescara, non mi pare il caso di esserlo. Tantissimo lo sono. Tantissimo. Io. Ah. Potrebbe essere la nona dell'Inter, la nona di Pioli. No, non lo guarda, io confesso una cosa, io ho comprato un televisore nuovo a dicembre. Da quando ho montato questo televisore, l'Inter ha solo vinto. Mi piace questo qui. Capito, Pardo? Questo è l'approccio scientifico che ci aspettiamo da uno straordinario lucido notista politico, questo è l'approccio giusto, è tutto merito del televisore, non diciamo la marca, però no assolutamente, è coreano però. Dici il televisore coreano. Tommaso Match Point, fammi la cronaca. Match Point, pallonetto Nadal, annullato il Match Point da Dimitrov. Annullato il match point. Se Rocky 4 fosse in uscita oggi, dopo questa partita, lo scambierebbero per un film di Chiarostami per la lentezza. sei veramente in forma. È informissimo. Peccato che il nostro amico Luciano sia in motorino e stia ascoltando qualche altro programma. Ho sintonizzato su altre radio, come fa adesso spesso. Farà un tweet su, non lo so, su Cuore Tenari, Senti, come va? 40 pari quindi? Sì. 40 pari Nadal al servizio, serve per il match. Serve da destra e Match Point Nadal di nuovo. Match Point Nadal di nuovo e siamo vicini alla... Adesso serve da sinistra. Serve da sinistra, adesso, che è la cosa. Adesso anche prima ha servito la sinistra, adesso non fa il tecnico la base. 40-30, un vantaggio interno e sempre da sinistra, no? Esattamente. Vabbè, comunque è importante, anche stavolta serve da sinistra. Quindi che succede? Il televisore fa... nuovo fa di tutto tranne che leggere nel futuro. Bisogna aspettare che parta. Cosa che sta facendo in questo momento? Battuta, risposta. Attenzione nastro! No, annullata anche questa. Annullata secondo me. Colgo quindi un tifo per Nadal, eh? Ma tutti fanno tifo per Nadal, no, salve. Non tutti. Noi abbiamo un esponente qui che non fa il tifo per Nadal ed è Edoardo Lavezzari, l'ultimo arrivato, che fa invece il tifo per Dimitrov per due ragioni. Certo. La prima è che gli sta antipatico Nadal. La seconda è che è impressionato dal fatto, è rimasto impressionato dal fatto che Dimitrov è uno che ha dato il 2 di picche a Serena Williams e anche a sua maestà la Sharapova, le ha mandate tutte e due a stendersi, e ha detto vabbè, questo pure l'abbate, va detto. Mi piacerebbe trovare l'alternativa, mi piacerebbe capire qual è l'alternativa, insomma. L'alternativa si trova, evidentemente c'è altro da fare, insomma, non era quella giusta, però non perdiamo però di vista la la partita. Quindi perché c'è di nuovo Nadal, vantaggio Nadal, ragazzi. Terzo match point. Terzo match point. Un cambio di gioco, vi giuro, di Gagliardini mi ha emozionato di più nelle ultime settimane. E stavolta serve da sinistra, tra l'altro. Stavolta serve da sinistra. Mazza, che tecnico, Pier. Hai visto, per la terza volta. Guarda un po', la terza volta va a servire da sinistra. Ma io sono qui in stazione centrale, c'è la gente, sono tutti fermi. Guarda, hanno fermato anche i treni, sono tutti in attesa di sapere se Nadal. Raccontato da Rabate. Attenzione, Nadal. Questo è un momento storico. Fuori, ha vinto Nadal. Ha vinto Nadal, abbiamo la finale dei sogni. Errore non forzato di Dimitrov. E finisce la partita. La partita 4 ore e 58 minuti. Questo visto grazie alla definizione del televisore coreano che mi fa vedere anche il monitor. Infatti era 4 e 56, vedevo bene io. Questa marchetta ormai. Signor Lattate, ora. 6 3 5 7 7 6 6 7 6 4 questo è il risultato della semifinale e dunque Federer contro Nadal per gli Australian Open. Dammi un titolo, Labate. Beh, ritorna il passato prima o poi torna, il passato prima o poi torna, al contrario di quello che diceva Renzi, che ha detto questa frase sul futuro. Senti, senti, fermiamoci un secondo, riprendi fiato, tieni caldo il televisore coreano e poi facciamo due battute sull'Inter. Tutti convocati. Tutti convocati. Chi mi scrive, tutti fanno tifo per Nadal perché a tutti piacerebbe sabato, che è poi domenica, per tre orette far finta di avere 10 anni in meno. Questa non è male come lettura, ma soprattutto Tommaso Labate, una delle più importanti penne politiche della politica italiana, che ci racconta questo finale di partita grazie al televisore coreano con il quale l'Inter ormai non perde più. Vabbè, questo è indimenticabile, Pardo, nella storia di tutti i convocati. Sì, con la speranza che questo il televisore coreano si ricordi di noi a questo punto, perché li abbiamo citati circa 9 volte, mi sembra esatto. Bravo Tommy, abbiamo bisogno che noi, sai, il mio si è rotto, vedi tu, no. No, non funziona più tanto bene. Ragazzi, io l'ho comprato, però se mi arrivasse tra l'altro stamattina Labate ha postato una foto che è in fila, che numero è? Il numero 48.000 della fila del biglietto di Vasco. 48.000 della fila dei biglietti di Vasco Rossi. Sì, personaggio straordinario, che non cerca crediti, che non cerca scorciatoie. Secondo me è pronto anche per una leadership importante nel paese, il signor Labate. Domenica io, c'è l'ultimo. Io lo voterei. Anch'io lo voterei. Ti voto. Ti voglio bene. L'ultimo, domenica però, questa partita è come se fosse l'ultimo concerto dei Rolling Stones annunciato, no? Se annunciassero l'ultimo concerto, è questo il significato. Ma volevo chiederti dell'Inter. Domani potrebbe suonare la nona. Ti rivelo un segreto, che è questo. L'altro giorno parlavo con Gasperini. Di persone mi ha detto, guarda, io ho detto una sola cosa a Gagliardini quando è andato via. Gli ho detto, ti chiedo solo questo, vai all'Inter e gioca subito dall'inizio per essere protagonista, perché lì tempo non te ne danno. Quindi non perdere tempo, muovi il culo e gioca come giocavi nell'Atalanta, perché puoi farlo. Guarda, è un suggerimento giusto, anche perché Gasperini all'epoca pagò veramente delle colpe eccessive, non sue, di un ambiente che veniva drogato dal modo di gestire la squadra e da questa, diciamo, impellenza che la società ha anche quando cambia di proprietà. Io, in una nota trasmissione televisiva dedicata al calcio che va in onda sulle reti Mediaset di lunedì sera, non faccio il nome alla trasmissione, ho detto che diciamo sarebbe facile adesso dirsi tutti pioliani o non potersi non dire pioliani. Io avrei dato più tempo a De Beer e lo dico adesso. Detto questo, la squadra gira completamente a un'altra velocità e l'acquisto di Gagliardini in questo momento ci ha fatto fare 2 acquisti, perché a 28 milioni noi abbiamo comprato Gagliardini e sembriamo aver recuperato i 30 e passa che spendemmo per l'amico, esatto, per l'amico Kondo. Ma perché la squadra funziona, quindi tu rimani comunque sulla posizione di Pardo, avresti dato più tempo a De Beer, chissà perché poi. questo non l'ho capita. No, perché comunque il tempo si dà per lo stesso motivo per il quale non cerca i biglietti gratis per il concerto di Vasco, perché è uomo d'onore da questo punto di vista, è intellettualmente onesto. Io ho molto apprezzato la cosa che hai detto l'altro anche giorno, un po' masochista, perché... Masochista, ma uno può rendersi conto che la scelta è stata quella giusta, no? La scelta di Pioli è stata quella giusta, ma anch'io sono d'accordo con Tommaso. Io penso che non è che dimentico che in quei giorni lì dicevo che era assurdo cacciare De Boer. Era assurdo cacciare De Boer perché secondo me allora non andava preso. Infatti la conclusione infatti non andava che non andava preso. Questo poi, Poi parliamo anche di Toir, che ha dato impegno alle associazioni dell'Inter. Anche Gullit l'altro giorno, no? Cioè comunque ad agosto tu prendi un allenatore a 10 giorni all'inizio del campionato per fare una rivoluzione, se lo prendi ci devi credere, lo devi sostenere. Questo non è mai successo. Poi è ovvio che la fretta è tanta, il tempo è poco, soprattutto in un grande club come è l'Inter. Soprattutto in un grande club che da qualche tempo non vince, quindi aumenta ancora questa pressione, che è un po' il discorso che diceva anche Gasperini l'altro giorno, ed è il motivo per il quale alla fine la scelta sarà giusta. Che Pioli stia facendo meglio De Boer credo che sia pacifico, no? Insomma, lo capisce un bambino di sì. 3 mesi. Prima di salutare Tommaso Novati, invece, voglio farti sentire una cosa. Voglio farti sentire una cosa di un tuo amatissimo ex allenatore, José Mourinho, che ieri ha giocato in Coppa d'Inghilterra contro l'Hull City, ha perso 2-1, si è qualificato lo stesso il Manchester United grazie al risultato dell'andata, però poi è andato in sala stampa e ha parlato così in inglese, lo capiamo tutti. We didn't lose. Well, it was 1-1. I only saw 2 goals. I saw Pogba goal and their goal. Fantastic goal, great action, great cross, and the guy in the far post coming. 1-1. We're still unbeatable. Why don't you count the first goal? I didn't see. Capito? Abbiamo fatto 1-1. Un gol di Pogba, poi un fantastico gol della City. No, ma guarda che c'è stato un altro gol che avete perso 2-1. No, non l'ho visto. Ma io non sono, lo confesso, ma lo sempre detto, non ho problemi a dirla adesso. Io non sono tra quelli che i murignani a prescindere sempre comunque. Io sono un grande, sarò grato per tutta la vita a Mourinho per quello che ci ha dato, però io ho un'impostazione, diciamo, il mio allenatore è quello che è allenatore in quel momento. Se ti dovessi dire voglio Mourinho la prossima stagione, ti racconterei una bugia. Questo atteggiamento che ha José non è buono secondo me per tutte le stagioni, espone l'ambiente ad una serie di critiche eccessive rispetto a quello che il resto del panorama, i competitor, gli altri tifosi, nei momenti in cui si vince. E in un conto di saldo di costi e benefici, tolti Porto e Inter, magari non dà i risultati sperati. Sì. Non è un atteggiamento che a me piace personalmente, preferisco, mi riconosco più che so, in Osvaldo Bagnoli o in Pistimoni o in Pioli. Qui abbiamo gusti diversi. Lucidissimo la base, io invece mi riconosco in Mourinho che fa questa, che dice queste cose. Questi mind games, come direbbe il signor Genta, sono in certi momenti sono geniali, o comunque sono utili, in altri momenti sono semplicemente stonati. Sì. Quindi non esiste una regola precisa. No, sicuramente nell'Inter, in quell'Inter lì che era una squadra fortissima, questi mind games, queste provocazioni, queste polemiche, questo giocare con i giornalisti, con gli avversari, sicuramente ha funzionato e ha avuto un ruolo non marginale, ha avuto un ruolo importante, quindi questo va detto e va riconosciuto, però non sempre funziona. In questo momento Mourinho è in difficoltà, la squadra è in difficoltà e non è dicendo che non è dicendo che è finita 1-1 che risolve i problemi, questo è chiaro. Grazie Tommaso, a presto. Grazie Carlo, ciao. Grazie anche per averci raccontato, non vogliamo fare un saluto finale all'azienda coreana. Un saluto all'azienda coreana che ha prodotto il televisore magico di Tommaso Labate. Però Pierluigi, per te adesso è arrivato il momento più difficile della settimana. Ah, ecco, vai. Sei pronto? Sì. La schedina di Pardo. Vai. Attenzione. Lazio-Chievo, domani. 1-1. Inter-Pescara, domani sera. 1. Domenica 12:30, Torino-Atalanta. 1. Cagliari-Bologna. X. Crotone-Empoli. 2. Fiorentina-Genoa 1. Sampdoria-Roma, qui ti voglio. 2. Sassuolo-Juventus 2. Udinese-Milan X. E infine domenica 20:45 Palermo-Napoli. No, Napoli-Palermo 1. Napoli-Palermo. Vince il Napoli, vince il Napoli. 1. Perfetto. Sì. Questa è la schedina di Pierluigi Pardo. Siamo fra il 6 e il 9, eh? Siamo fra il 6 e il 9. Attenzione, sì, sì. A un Sampdoria-Roma scivoloso per molte ragioni. No. Scivoloso per molte ragioni. Lunedì facciamo i conti. Grazie, Pierluigi. Ciao, ti abbraccio. Allora, GR, torniamo subito. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Tutti convocati. È l'ora degli Highlander, degli immortali. Ricordo che la finale degli Australian Open sarà Roger Federer contro Rafa Nadal, che ha battuto Dimitrov in 5 set, e dunque un ritorno al passato, così come un ritorno al passato sono i giorni degli immortali, quello di Carolina Kostner, che dalle 18 sarà sul ghiaccio, dalle 18 in poi, ed è terza dopo il programma corto, torna dopo la lunghissima squalifica a gareggiare in un europeo. Ma adesso c'è qui con me Marco Beninazzo dal piano di sopra, dal Sole 24 Ore. Eccoci, buon pomeriggio. Allora, sport e business domani e domenica in edicola all'interno del Sole 24 Ore. Dacci qualche preview. Non fare come Pastorello prima. No, ci occuperemo domenica dell'industria sportiva italiana, che è un'industria un po' dimenticata, ma che assolutamente è da rilanciare, fa fatturati in grande crescita e che al 70% fuori dall'Italia, vuol dire che i prodotti sportivi italiani vengono apprezzati molto in tutto il mondo. Siamo anche qui un paese da esportazione. Assolutamente sì, un po' una sorpresa se vuoi, ma con tante piccole chicche, come per esempio il fatto che la Nike da tanto tempo ha il suo centro di ricerca a Montebelluna, dove c'erano Lotto e Diadora, che un tempo erano leader nel mondo per la creazione di scarpette. Sì. La Nike oggi lo è, ovviamente per massa critica, chiaro. Ma le idee, cosiddetto know-how, lo va a prendere dove? In Italia, nel distretto dello sport system italiano. Dunque, l'ultima finale tra Federer e Nadal fu di un grande slam, naturalmente, fu Roland Garros del 2011. Sono passati un po' di anni. Vittoria di Nadal in 4 set. Io farò il tifo per Federer, lo dichiaro prima. Mi applaude Edoardo Lavezzari, che voleva anche addirittura la vittoria di Dimitrov. Su questo non ero d'accordo. Comunque, guardiamoci questo, facciamo questo tuffo nel passato. Faremo soldi anche con i diritti TV all'estero, immagino. Quanti potremmo farne, forse? Beh, molto meno di tanti altri campionati, ma qua, sai, insomma, è un discorso di programmazione, di appeal, di belle partite, oltre che di campioni. E in Italia, insomma, si comincia a rivedere qualcosa, ma ancora molto meno che in Premier o con le due grandi di Spagna. Certo, come ci diceva Gullit l'altro giorno, in Olanda fanno vedere una partita ogni tanto del campionato italiano. Guai, sono quelle che contano. Guai invece a non trasmettere partite della Premier. In Olanda, guai invece come non trasmettere partite della Premier, naturalmente. Però anche sulla programmazione, sulla trasmissione delle partite del campionato italiano in Italia sta nascendo qualche controversia. Quale? Tu sai che si era chiuso la vecchia asta, anzi è ancora aperta la controversia della vecchia asta con la multa dell'antitrust, poi annullata dal TAR. E ora alla questione giuridica, cioè su come deve essere garantita la competitività tra i vari broadcaster, ne sta aggiungendo proprio una industriale, cioè quali soggetti avremo effettivamente sul mercato italiano, perché se Sky è lì ed è pronto a fare le sue offerte, non è così per Mediaset Premium, un po' per proprie scelte, un po' perché c'è tutto il discorso aperto con Vivendi nell'ambito di questo processo industriale che doveva portare alla creazione di una Pay TV paneuropea insieme a Canal Plus, che è ancora oggetto del desiderio di Vivendi e di Bolloré, almeno per quello che dichiarano, e d'altro canto invece Mediaset è rimasta scottata dal ritiro di Vivendi dal vecchio accordo, per cui anche lì carte bollate, udienza in primavera davanti a un tribunale con Mediaset che chiede oltre 1 miliardo di risarcimento dei danni, e in ogni caso Mediaset Premium sembra intenzionata a fare un passo indietro. Pier Silvio Berlusconi ha detto che Mediaset Premium potrebbe essere una piattaforma per chi detiene i diritti. Il punto è allora chi andrà a comprarseli questi diritti e chi vorrà utilizzare la piattaforma del digitale, cioè, terrestre. Per capire, parliamo del triennio 2018-2021. Esattamente, no? Quindi la prossima stagione è coperta, dall'altra in poi. Allora, da un lato c'è Sky, che è Sky, ed è lì. Dall'altro lato non c'è sostanzialmente nessuno, giusto? C'è diciamo il concorrente in tutti questi anni di Sky è stato Mediaset. Mediaset sembra fare un passo indietro. Il punto allora è capire se qualcun altro vorrà entrare. Questo qualcun altro in questo momento ha una fisionomia ben precisa, che è Eurosport, che è di proprietà di Discovery, che è di proprietà di Liberty Media, che ha investito, diciamo, miliardi di dollari per comprarsi la Formula 1 e intende fare di ogni appuntamento un Super Bowl, che ha preso i giochi olimpici, che investe molto anche sul rugby e che quindi potrebbe entrare anche nel mercato calcistico. A quel punto però dovrebbe avere, visto che non ce l'ha, una pay TV sul digitale terrestre, certo. Ed ecco che si potrebbe magari profilare un'alleanza per cui Discovery prende i diritti, Mediaset mette la sua piattaforma, la sua rete di trasmissione sul digitale, e si potrebbe effettivamente creare un concorrente per Sky. Naturalmente il calcio italiano si aspetta questo, si aspetta che ci siano effettivamente una gara combattutissimo in modo da far alzare i prezzi. Ieri proprio Agicom e Antitrust, sulle linee guide che sono state preparate da Infront, che è l'advisor della Lega, ha detto che non vanno bene, che sono troppo generiche, devono garantire più concorrenza, e quindi le ha rimandate indietro, devono essere di nuovo preparate. Questo fa anche un po' gioco, perché in questo modo si prende tempo e si aspetta, sì, che il mercato sia più definito. Il vero interrogativo sarà come li spezzettiamo questi pacchetti, cioè è ancora il caso di fare due pacchetti sostanzialmente su piattaforma, quindi digitale terrestre piuttosto che satellite, ovvero si può scegliere un'altra strada, come per esempio in Premier, cioè dividere i pacchetti indipendentemente dalla piattaforma per fasce orarie, quindi le partite, non so, del sabato mattina piuttosto che quelle del sabato pomeriggio, del lunedì pomeriggio, del venerdì pomeriggio, in modo tale da creare più concorrenza. Sì. Una scelta analoga la potrebbe fare anche la Bundesliga. Insomma, il mondo sta cambiando, anche perché ci sono i social network che potrebbero entrare nel mercato, chiamiamolo televisivo tradizionale, esperimenti come sai, Twitter che trasmette la NFL sono stati fatti negli Stati Uniti, ovviamente serve la tecnologia, serve la banda larga e noi qui siamo un po' indietro, ma tutto è in movimento. Quindi gli scenari sono sostanzialmente due: uno pessimistico in cui ci ritroviamo con una Serie A che solo Sky può comprare, sì, e quindi con prezzi che calano e quindi il prodotto, sì, che si svilisce. Un altro invece in cui abbiamo due broadcaster tradizionali, 2/3, più un'entrata in gioco magari di grandi social network internazionali che, come stanno facendo negli Stati Uniti, potrebbero essere interessati a fare questo esperimento in Italia, e quindi con i diritti che invece gli italiani che schizzano e danno quindi una mano alle squadre. Quando si sbroglierà tutta questa confusione? Guarda, questa decisione di ieri delle autorità ha ulteriormente allungato i tempi, perché dovranno essere riscritte le linee guide, poi deve essere fatto il bando, quindi diciamo si va verso l'estate, mentre inizialmente era previsto per questa primavera. In contemporanea la stessa cosa sta succedendo anche per i diritti della Champions, anche qui pacchetto 2018-21 che va all'asta, anche qui la UEFA ha scelto prudenzialmente di aspettare ancora un po', sì, anche perché il secondo paese che contribuiva di più economicamente da questo punto di vista è l'Italia, quindi è bene che ci siano condizioni più chiare nel nostro paese. Esattamente. Senti, secondo punto, voglio trattarlo sul piano puramente cronachistico, della tua opinione. Ha fatto molto rumore ieri questa vicenda relativa a incontri pericolosi tra la presidenza di Juventus, tra Agnelli e Loschi Figuri. Ora io non voglio approfondire questa notizia perché secondo me è per altra sede, ma qual è il tuo pensiero? Guarda, condivido le inchieste, insomma, si dà notizia delle inchieste, poi secondo me bisognerebbe aspettare che poi le varie autorità facciano il proprio lavoro. Dovere. La mia riflessione però è molto più ampia e allo stesso tempo anche più precisa, perché altrimenti qui si gioca sull'equivoco e non si risolve mai nulla. Che le curve italiane siano, come un tempo erano politicizzate, in questo momento infiltrate da criminalità di vario tipo, mm-hmm. è una non notizia per le procure, si sa benissimo, lo sappiamo perfettamente. Segreto di Pulcinella. Ora, che le società siano da sole a dover confrontarsi con questi soggetti è altrettanto vero. Vogliamo dire un'altra cosa, Carlo? Uno dei motivi per cui non si fanno gli stadi di proprietà in Italia è che le società dovrebbero poi assicurarne la sicurezza, il controllo, tutte le verifiche per 24 ore al giorno, 365 giorni alla settimana, e quindi sarebbero più esposte al rischio di minacce e di ritorsioni da parte di questi soggetti. Viceversa, se è lo stadio del comune che prendi in affitto per un paio di giorni a settimana o giusto quando ci sono le partite, hai meno rischi e meno costi. Certo. Allora, la riflessione generale, se non vogliamo fermarci alla cronaca spiccia che riguardi la Juventus piuttosto che il Napoli e piuttosto che il Milan, perché ci sono aperte indagini anche in questo senso, è che il governo deve fare di più per non lasciare solo le società e per bonificare finalmente le curve. Se le società restano da sole, allora si devono in qualche modo arrangiare, e uno dei modi può anche essere quello di dare un po' di biglietti a questi signori che poi ci fanno bagarinaggio, ovviamente tutte cose commendevoli, chiaro, e tutto, però io mi metto dal punto di vista della società che deve gestire il suo stadio appena fatto e che chiaramente ha bisogno di mantenere l'ordine pubblico e la tranquillità. Questo è vietato dalle norme. Io sono perfettamente d'accordo con te, cioè qui serve un intervento superiore, perché quei pezzi di paese che sono gli stadi, di proprietà o non di proprietà, non possono essere lasciati in mano a criminalità organizzata. E che la criminalità organizzata, per questioni di puro affare, gestisca le curve italiane è un segreto di Pulcinella, è un dato di fatto, anzi, anche se qui pure dovrebbero parlare i magistrati. Vox Populi dice anche che pure a Roma, sul fronte Roma, ci siano state pressioni di questo tipo per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio. Su tutte le società, e mi fa piacere per esempio che ieri si sia insediato all'interno della Commissione Antimafia un comitato proprio sulle infiltrazioni criminali nell'ambito del calcio, e quindi delle curve, dei rapporti tra società di calcio, soprattutto il calcio minore e criminalità organizzata. Mi auguro, insomma, che non resti il solito comitato che poi fa il suo rapporto finale, e buonanotte, insomma, a tutti. Buonanotte ai suonatori, e questa l'abbiamo vista mille volte. Quando sento la parola comitato a me vengono sempre un po' di brividi sotto pelle. Un'ultima cosa che ti voglio chiedere, mi ha fatto abbastanza sorridere, è questa di Toir, che è andato a un banco dei pegni a Singapore a impegnare non il violino che usava quando era piccolo, ma la quota che ancora detiene. Beh, tu sai che, per 80 milioni. Sai che dal punto di vista, diciamo, strettamente finanziario, il mio idolo Toir, cioè un uomo che riesce a fare 50-60 milioni di plusvalenza mettendolo 75 nell'Inter, e in più facendo emergere 220 milioni di plusvalenza da un'operazione di ristrutturazione del debito a 230, è un mago della finanza, quindi andrebbe premiato, andrebbe fatto ministro dell'economia o quant'altro. Al di là di questo lui ha ancora questa quota dell'Inter, chiaramente in uscita perché Suning, insomma, vuole liquidarlo, è solo una questione di tempo. Nel frattempo però evidentemente aveva bisogno di soldi e ha dato in garanzia questa quota dell'Inter. Non so se i cinesi non sarebbero tanto poi contenti se eventualmente non riuscisse Toir a risarcire, a rimborsare il prestito, e quindi questa quota finisse effettivamente alle banche di Singapore che hanno erogato il credito. Immagino, insomma, che questa situazione possa accelerare il processo che porterà Toir fuori dall'Inter. Certo, insomma, è sintomatico. Non è quello che va con l'orologio e impegna l'orologio, lui va e impegna le... Beh, sai, da un certo punto di vista deve fare anche piacere, perché insomma vuol dire che istituzioni finanziarie di Singapore, che non vanno molto per il sottile, insomma, hanno ritenuto talmente pregiato, insomma, il pacchetto azionario dell'Inter, che gli hanno prestato sulla base di quello 80 milioni. Che non sono poco. Novità sul Milan, niente. Tutto tace, non so se è un buon segno o un cattivo segno. Insomma, ormai, come qualche tifoso mi ha scritto, insomma, la vicenda del closing del Milan è un atto di fede, o ci credi o non ci credi. Senti Marco, un'ultima cosa che riguarda te invece personalmente. Ieri abbiamo parlato a lungo di questa attesa tra Napoli per Real Napoli e siamo tutti molto ottimisti, molto fiduciosi. Pardo dice 50-49, ma solo per cento, ma no, solo per la maggiore attitudine che il Real Madrid ha verso queste partite. Guarda, perché... se dovessimo guardare i fatturati, qui sai che sono molto affezionato. Fai Sarri. No, dico, di nuovo, dico anche tu con i fatturati. Se andiamo a guardare le 8 sfide degli ottavi di finale della Champions, è la sfida più squilibrata. Ci sono oltre l'estratto 500 milioni. No, fammi finire. No, dicevo, se guardassimo quello, non ci sarebbero speranze. Per fortuna il Napoli ci sono solo due partite da fare, quindi non un intero campionato, e a Napoli esprime un gioco talmente bello che davvero se i giocatori riuscissero a mantenere quel tipo di attenzione per 180 minuti e magari anche per un supplementare, ecco, in quel caso secondo me ci possono essere grandi speranze, alla luce del fatto che magari il Real Madrid potrebbe prendere un po' sotto gamba, se anche loro sono molto attenti anche loro ai fatturati, insomma vanno a guardare sulla carta, dicono che questi hanno 500 milioni di fatturato in meno, cosa vuoi che possano pretendere di passare il turno? Quindi certo, a quel punto Sarri dirà, questi qui hanno 500 milioni di fatturato in più, che cosa volete da noi? Appunto, condizioni migliori, diciamo, per riuscire a fare l'impresa non ce ne sono, perché sei assolutamente la squadra deputata a perdere, se perdi giocando bene fai quello che devi fare, nessuno si aspetta di più, e quindi io mi auguro insomma che ci possa essere una sorpresa, perlomeno ecco, una partita combattuta anche nella finale nel quarto di finale di ritorno, detto finale certo, perché di fatto per noi lo è l'ottavo di finale, così almeno avrebbero una gratificazione, allora facciamo un patto, anche i 70.000 che hanno già versato 4 Napoli, milioni a De Laurentiis. Se passa il Napoli, vieni qui il giorno dopo con i bilanci fatturati del Real Madrid e del Napoli, accendiamo un falò nello studio. Assolutamente. Rimaniamo con questo patto tra il sottoscritto Marco Berinazzo e tutti gli ascoltatori. Intanto grazie Marco. Va bene, a presto. Grazie a Marco Berinazzo. Adesso saluto un professore del basket come Marco Crespi. Buongiorno. Professore per anzianità o no, per no, competenza? Per competenza, naturalmente. Anzianità di che? Ho visto che si è fatto crescere la barba, ma la mia è più grigia. Non lo so, la mia è bianca. La mia pure. Tutte e due siamo in questo momento barbuti, sembriamo Babbo Natale. Stiamo a far andare fuori stagione. No, avevamo in sospeso una chiacchierata su un meraviglioso articolo che mi avevi mandato su Nando Gentile, ti ringrazio pubblicamente, che hai scritto Alessandro Gentile. Su Alessandro Gentile, Nando. La generazione fa dire Nando. Sì, anche l'anzianità, anche l'età, Marco. Sì, la nostra generazione. Comunque, su Alessandro Gentile, in cui spiegavi, ma può essere un top giocatore di Eurolega oppure no? Non abbiamo una risposta, ma tu hai provato a spiegare se, come e perché. Un giorno parlavamo proprio da questi microfoni, l'argomento mi ha incuriosito, con Franco Arturi, ex vice redattore della Gazzetta dello Sport, che sottolineava come la meccanica di tiro di Alessandro Gentile sia pericolosamente peggiorata. Tu sei d'accordo su questo? Guardando le immagini, la meccanica di tiro è peggiorata, ma io credo che un giocatore che nasce nella sua prima stagione a Treviso tirando più da tre che da due, ed essendo considerato come scouting report da coach avversario un tiratore da tre, non può perdere la sua qualità. Significa che non è il gesto tecnico che è peggiorato, è la sua non tranquillità mentale ed emotiva. Quindi è dovuto alla testa più che al cioè puoi fare 2000 tiri al giorno, ma non cambia quella parabola che è troppo dritta. La parabola durante la partita è dritta, ma sono sicuro che Alessandro, quando lavora in allenamento, va una parabola assolutamente più morbida, perché poi è la partita, la non tranquillità, il non sentirsi più a suo agio a Milano, quando parliamo della sua ultimo anno e mezzo di Milano, che ti contrae, fa uscire un altro movimento di tecnico. E poi aggiungo, penso che per lavorare sul movimento individuale devi essere complice con chi lavori ogni giorno in palestra. Sì. E quindi come lavori sulla testa in quel caso, tu da allenatore? Da allenatore penso che sia importante scegliere, partire non dalla testa, perché il tiro, se diciamo c'è un problema di testa, devi stare tranquillo, abbiamo già citato il nostro giocatore. Scegliere due dettagli, ma due dettagli che non siano quelli gli elementi di correzione, ma gli elementi di qualità, di sicurezza, di continuità del gesto, e lavorare su quelli. Nel momento di difficoltà bisogna lavorare su qualche cosa di positivo già completamente preso, e qualcosa di positivo che è riconosciuto dal giocatore. Bisogna ascoltare il giocatore. Allora, trasliamo questo discorso su Milano, che perde 10 partite di fila in Eurolega, diventando una sorta di barzelletta europea. E qui non possiamo parlare di fatturati, perché Milano ha un fatturato che vale serenamente i playoff e forse qualcosa in più dal punto di vista del budget. Trasliamo questo discorso a Milano, che perde 10 partite in Eurolega diventando una barzelletta, e poi gioca la partita dell'anno o del grande rimpianto l'altra sera contro l'Olympiacos, segnando il 99 alla più forte difesa d'Europa. Questo dicono i numeri. Allora, due cose. La prima, 10 partite sono 10 fatti, una partita è un fatto solo. Due, durante questa stagione regolare ovviamente ci sono le squadre, soprattutto quando c'è il doppio impegno, non come in NBA quando c'è il back to back, che scelgono quale partita giocare, però emotivamente non si può essere arrabbiati ogni volta. E poi, per completare la risposta, ti rispondo con una frase di Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi oggi ha detto in un articolo sulla Gazzetta dello Sport: il vero leader del Napoli è il gioco. Io credo che quando vuoi sfidare chi è più forte, e lo puoi fare a livello di Eurolega, non devi dire mi manca il leader, mi manca questo, ma il gioco deve essere il leader. Marco, ti chiedo ancora questo, e riguarda sempre un'intervista che è comparsa oggi sulla Gazzetta dello Sport, non a Arrigo Sacchi ma a Larry Brown, uno dei più noti allenatori della storia del basket americano, che ha detto: ma perché no, mi piacerebbe, ho molta voglia di allenare, mi piacerebbe allenare l'Eurolega, Milano potrebbe essere un'idea, un sogno. Io ti dico la verità, sono perplesso, non so tu, ma sono perplesso per un motivo personale, perché l'ho visto allenare dal vivo gli Stati Uniti alle Olimpiadi del 2004 ad Atene, non conosceva neanche i giocatori avversari. Che voglia andare in giro a fare un po' di grano, a raccogliere un altro po' di popolarità per essere cattivi? Allora, un po' di grano penso non ne abbia bisogno. Ho un'esperienza quando ero vice allenatore della Nazionale Juniores nel 1987, sì, ai mondiali a Bormio, e lui allenava quella squadra dove nella squadra serba c'erano tutti insieme, nella squadra serba, scusate, la jugoslava, c'erano tutti Raja, Divac, Djordjevic, Danilovic, eccetera. Kukoc. Danilovic era ancora troppo giovane. Danilovic era giovane, sì. Sul fatto che sia una cosa non logica, non lo so, nel senso, Larry Brown sicuramente è un genio di pallacanestro, è uno che ogni volta, se vedi giocare le sue squadre, anche l'ultima esperienza di college, le sue squadre giocano con delle idee. Il fatto che abbia voglia di mettersi ancora a sudare, rimboccandosi non le maniche ma la penna per pensare idee, adattandosi a un altro basket, questo condivido con te, è un punto interrogativo. Marco, è sempre un piacere, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie Marco Crespi, professore. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domenica dalle 5 alle 7 con Giovanni Capuano e con tutti i convocati weekend, e poi lunedì, solito appuntamento. Ciao!